Radio 24 Reportage. Tongo, l'esercito dei dannati di Musumeci, Borga e Fagotto. La va a Bugere se gruppano. La va a Nglingli se gruppano. Lì in fondo a Bughere la strada è interrotta, lì a Nglingli è tagliata. Tutte le tre strade di Jima Babuti e Ajima sono tutte tagliate. Qui siamo tutti sfollati a causa degli attacchi dell'LRA nei villaggi vicini. I Tongo Tongo hanno attaccato un sacco di villaggi saccheggiando tutto, dal cibo ai vestiti, per poi scappare nella boscaglia. Solo così i Tongo Tongo. I Tongo Tongo, i guerriglieri di Joseph Kony dell'LRA, il Lord Resistance Army, seminano il terrore nei villaggi del Centrafrica e del Congo. Siamo a Obo, sperduto villaggio della Repubblica Centrafricana, quasi al confine con la Repubblica Democratica del Congo. Obo, cuore nero dell'Africa nera, è al centro di una devastante e silenziosa guerra che si combatte da quasi 25 anni. Di fronte, il Lord Resistance Army, forse il gruppo ribelle più sanguinario al mondo. Dall'altra parte, gli eserciti di tre paesi, Uganda, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo. L'LRA nasce nel 1987 con lo scopo di rovesciare il governo ugandese e instaurare un governo religioso. Il suo leader, Joseph Kony, su cui pende un mandato di cattura internazionale, è supportato dal Sudan, interessato a destabilizzare l'intera regione. Dopo una lunga e sanguinosa guerra, i gruppi di ribelli, infarciti di deliranti insegnamenti religiosi, ispirati ai 10 comandamenti, ma anche di misticismo e magia, inseguiti dalle forze speciali ugandesi anche fuori dal territorio di Kampala, scorrazzano tra le foreste dei tre paesi, seminando morte, distruzione e terrore, e mirando ora solo a sopravvivere. Gruppi di 20, 30 o anche solo 5 miliziani corrono veloci nella boscaglia, dormendo dove capita, come animali feroci pronti a colpire i villaggi indifesi per rifornirsi di cibo, donne e schiavi, e per reclutare forzatamente giovani combattenti. Loro hanno i fucili e ti uccidono, e poi prendono il macete così, e tagliano la testa ai morti. Sono così, Tongo Tongo, ti rapiscono, ti rendono schiavo e ti fanno fare il portatore nella foresta. Sono così i Tongo Tongo. Due anni fa, nel marzo del 2008, i primi Tongo Tongo, che nella lingua locale significa quelli che non dormono mai, entrarono qui a Obo. Di notte, in pochi minuti, fu il terrore, raffiche di Kalashnikov, colpi di macete, stupri e rapimenti. E fu l'inizio dell'incubo. Ascoltate il comandante Alexis Nguezemba, a capo della quarta regione militare delle forze armate centrafricane. I ribelli dell'LRA sono entrati un anno fa dal Sud Sudan e dal Congo. Tenete conto che tra noi e il Congo c'è un solo fiume che ci separa. Hanno attraversato il fiume e sono entrati in territorio centrafricano. I Tongo Tongo sono ribelli ugandesi che cercavano di prendere il potere in Uganda e, secondo il loro programma, avrebbero dovuto introdurre una legge basata sui 10 comandamenti. Ma dato che sono stati attaccati, sono fuggiti dall'Uganda, hanno attraversato tutto il Congo, sono arrivati in Sud Sudan e poi qui l'anno scorso. Noi facciamo del nostro meglio per combatterli. Secondo noi, devono stare nel loro paese. Benché partiti da lontano, sono arrivati fin qui e agiscono come dei banditi. Attaccano villaggi isolati per saccheggiarli, prendono ostaggi per trasportare il bottino di guerra e vivono nella boscaglia come animali. La nostra missione qui a Obo, combatterli e impedire che costruiscano una base nel nostro territorio. Ma loro non ingaggiano con noi, non combattono. Più che ribelli sono dei banditi, sono come dei ladri. Cercano dei villaggi isolati per fare irruzione, saccheggiare e poi fuggire. Se c'è un contatto con noi, loro fuggono immediatamente. Non sono un esercito convenzionale che si affronta normalmente, ma noi li cerchiamo ovunque. Loro viaggiano veloci ed entrano ed escono dalla boscaglia un po' ovunque. Sono numerosi. Nel 1986, quando hanno iniziato, erano 1500 uomini, sufficientemente armati. Oggi sono meno. Io stimo, ma è una mia opinione, che siano tra 150 e 200 uomini sul suolo centrafricano che cercano di allestire una base per le loro scorribande, ma noi glielo stiamo impedendo, inseguendoli. Sono guerriglieri armati con armi da guerra e si spostano a piedi. Sono molto veloci, possono percorrere anche 80 chilometri al giorno nella boscaglia. kilomètres à pied dans la brousse par jour et ils peuvent le faire. Così le forze armate centrafricane, poco più di un manipolo di uomini, pattugliano la zona di Obo a caccia dei Tongo Tongo, insieme con i colleghi ugandesi che dal 2008 hanno allestito una base nel villaggio. L'area di sicurezza è di appena 5 km attorno al villaggio, così gli agricoltori hanno dovuto abbandonare in massa i campi vicini. Solo pochi coraggiosi vi si recano, rischiando la vita, per trovare qualcosa da mangiare. E il contingente ugandese permette all'unica organizzazione non governativa, l'italiana COPI, di essere presente a Obo con progetti di emergenza ed educazione. Ascoltate Marzia, la capo progetto. Sono talmente tante le cose che ho sentito, visto, che se non riuscissi un pochettino a mettere uno spazio tra me e questo vissuto così forte, non ce la farei, perché ho visto morire ragazzine di 14 anni di parto, perché ho sentito storie di donne violentate da 7 uomini, perché ho visto un ragazzino sordomuto mutilato ad una gamba con un machete dai ribelli, perché ho visto ragazzine di 14 anni prostituirsi per avere 5.000 franchi, perché ho visto bambine di 12 anni diventare madri e padri uccidere i loro figli, perché ho visto troppe cose. Le storie di chi ha subito violenza, furia cieca, di chi ha vissuto l'ingovernabile terrore dei Tongo Tongo si intrecciano con quelle di chi ha dovuto commettere atrocità, di chi è stato arruolato a forza. In una piccola capanna di 10 metri quadrati col tetto in foglie di banano incontriamo Brice Katawa, un giovane di 26 anni, un ex Tongo Tongo. Sono stato rapito dall'LRA qui da Obo e portato sulla strada che va verso il Sudan, a Passibili. Dopo che quella notte mi hanno prelevato, abbiamo marciato per una settimana attorno a Obo. Abbiamo aspettato una settimana per fare poi un altro attacco e rapire altre persone sempre qui nel villaggio. La base di Passibili era abbastanza vicino a qui. Poi, dopo un mese, siamo andati nella base di Nabanga, in Congo. Ma alcune settimane dopo sono arrivati gli elicotteri ugandesi che hanno bombardato la base. Dopo il bombardamento i ribelli si sono sparpagliati e ogni gruppo è andato nella foresta e ogni gruppo aveva ricevuto precisi ordini, saccheggiare e uccidere e tu devi obbedire. Se esci da un villaggio senza aver ucciso sarai punito, mi dicevano. Non puoi uscire senza uccidere. E io ho commesso troppi crimini, troppi. Io ho ucciso, ormai l'ho fatto, non posso negarlo. Non era facile attaccare i villaggi, la popolazione reagiva e si difendeva. Quando sono riuscito a liberarmi ero in Congo. Dopo un bombardamento degli elicotteri sono riuscito a fuggire, poi ho incontrato le truppe delle Nazioni Unite e mi sono arreso a loro. Per 4 mesi sono rimasto lì. E poi sono tornato qui a Obo. Obo riaccoglie così i suoi figli, gli ex Tongo Tongo, e li reintegra nella città, perdonando i crimini commessi. Ma non sempre è così. In altri villaggi, chi è stato rapito e si è liberato, nonostante vi sia un'amnistia, non può più mettervi piede, perché i Tongo Tongo ti costringono a uccidere e a tagliare ogni legame con il tuo passato. E così diventi anche tu un dannato, destinato a uccidere per sopravvivere. Obo, invece, perdona e al tempo stesso si difende. Joseph, capo della milizia partigiana di Obo. Le démarrage d'autodéfense. Belle et bien. La milizia di autodifesa ha cominciato la sua attività quando l'LRA, il 6 marzo 2008, è entrato a Obo. I ribelli hanno saccheggiato il villaggio, hanno preso ostaggi e violentato le donne. È stato allora che noi vittime abbiamo iniziato a organizzarci per difenderci e proteggere i nostri piccoli. Sappiamo che gli ugandesi ci aiutano, ma è meglio che anche noi ci si organizzi per proteggere la nostra popolazione, per combattere questo nemico. Fra i loro compiti, pattugliare giorno e notte il villaggio e scortare la popolazione al pozzo d'acqua distante alcuni chilometri. Così usciamo in pattuglia con 40 di loro, armati di fucili di ferro artigianali che sparano pallettoni, macete e un paio di fucili finti in legno. Solo in un così gran numero possono sperare di contrastare la potenza di fuoco dei Kalashnikov di cui sono armati i ribelli, che sparano 650 colpi al minuto. Ma durante la nostra pattuglia nella boscaglia speriamo sempre di non dover verificare la nostra tesi. Obo è armata massicciamente, Obo ha paura ma si difende. E quei 5 km di raggio di sicurezza sono una bolla di sapone. Nessuno può sapere cosa faranno i Tongo Tongo e si attaccheranno rapidi e silenziosi. Un manipolo di guerriglieri potrebbe tranquillamente entrare e colpire in pochi minuti. Le pattuglie delle forze armate centrafricane arrivano a volte a Ngiri Ngiri, a 12 km, e permettono a qualche ardimentoso agricoltore di raccogliere un po' di manioca nei campi. Saliamo così su due camion e viaggiamo con loro alla volta del vicino villaggio. Mission: reconnaître l'axe, le village jusqu'au fin fond du village là-bas. 25 uomini armati con Kalashnikov e lanciarazzi RPG mettono in sicurezza il villaggio in pochi minuti. I resti di un fuoco, una vecchia scodella, i tetti delle capanne che iniziano a cedere. Il villaggio è disabitato da più di un anno. E poi, 5 vecchi uomini, dallo sguardo stanco più che spaventato. Lasciamo a Ngiri Ngiri 5 contadini che affronteranno la paura dell'oscurità e gli spettri dei Tongo Tongo e facciamo ritorno a Obo. La plupart de nos émissions se fait le plus souvent en patois ou langue nationale, sango. Lì Riccardo trasmette da una capanna con un microfono che perde i pezzi e un mangiacassette vecchio di 30 anni, con un raggio di trasmissione di 2 km. E gli abitanti di Obo, la città sotto assedio, incollano l'orecchio alla scatola magica e dimenticano per un po' i Tongo Tongo, l'esercito dei dannati, che nell'ombra della foresta è lì, a due passi da loro. Le programme d'aujourd'hui, c'est comme aujourd'hui, c'est le lundi. Et notre programme commence à 17h avec des petites chants musicales.